Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 25 aprile un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito il Nepal, causando, come ben noto, insomma, migliaia di morti, ma anche la distruzione di una parte consistente del patrimonio architettonico della regione. L'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, è tra le istituzioni impegnate in Italia nella ricerca di innovazioni tecnologiche per rafforzare la sicurezza degli edifici di interesse storico e artistico, anche non solamente, e ha sviluppato una sua tecnologia che permette l'isolamento sismico di edifici esistenti senza manometterli in alcun modo. Ne parliamo con Paolo Clemente, che è responsabile del laboratorio prevenzione rischi naturali e mitigazione effetti del centro Enea della Casaccia. Buonasera Clemente. Buonasera. Senta, allora, intanto ci spieghi un po' in termini generali che cosa si intende quando si parla di isolare dal punto di vista sismico un edificio. Significa interporre fra la struttura e la sua fondazione gli isolatori sismici, che sono di vario tipo, ma i più usati sono dei cilindri in gomma armata, molto deformabili in direzione orizzontale. Che cosa succede? Che si ottiene quello che si chiama il disaccoppiamento tra il moto del terreno e quello della struttura, cioè mentre in occasione di un sisma il terreno si muove con accelerazioni molto forti in orizzontale, invertendo il suo verso del moto molte volte, l'edificio sopra tende quasi a stare fermo e magari oscilla lentamente, con spostamenti anche molto grandi, però lentamente, con basse accelerazioni, e si comporta come una scatola rigida, che vuol dire che non si deforma, non si danneggia e preserva anche il suo contenuto. Ecco, quindi diciamo è come dotarlo di degli speciali ammortizzatori, no? Con l'automobile gli ammortizzatori fanno qualcosa del genere. Ecco, veniamo al vostro sistema. L'aspetto cruciale, dicevamo, è che permette di intervenire lasciando immutato l'edificio. Come avviene l'operazione? Sì, in realtà si opera al di sotto del piano di posa delle fondazioni e, come diceva lei, l'edificio non viene toccato per nulla. Si scava una trincea lungo un lato dell'edificio e si inseriscono dei tubi in orizzontale con tecnica spingitubo. E questi tubi in realtà sono già composti da un semitubi superiore e semitubi inferiore. Quindi divisi in due per il senso della lunghezza, questi tubi che vanno, dicevamo, sotto l'edificio. Sì? Esattamente. Al posto di questi elementi rimovibili che collegano appunto le parti superiori a quelle inferiori, verranno poi inseriti gli isolatori sismici, quindi consentiranno di disaccoppiare il movimento del terreno rispetto a quello dell'edificio che sta lì sopra. In pratica, alla fine, l'edificio è come se fosse contenuto in una vasca con anche un po' di terreno, la quale sta dentro un'altra vasca all'interno della quale riesce a muoversi, quindi, no? Esattamente, esattamente. Il terreno, che ovviamente è di fondazione, andrà ovviamente opportunamente irrigidito e consolidato. Senta, dicevamo edifici storici, senz'altro, anche perché immagino sia un'operazione piuttosto impegnativa e costosa. Che altro tipo di edifici potrebbero meritare interventi di questo genere? L'idea è nata per i nostri edifici storici, per gli aggregati strutturali tipici dei nostri centri storici, quindi non solo edifici isolati, ma anche strutture molto complesse, certo, di dimensioni anche molto ampie. Però è applicabile anche in ambiti completamente diversi. Pensiamo agli impianti a rischio di incidente rilevante, per i quali per esempio operare nella struttura non sarebbe opportuno, però si può intervenire al di sotto del piano di posa delle fondazioni. Tra l'altro ci sono situazioni in cui ultimamente, con tecniche di estrazione del gas e quant'altro, si genera anche una sismicità indotta, magari in aree dove non c'è nessuna sismicità naturale, gli edifici quindi sono molto poveri dal punto di vista della progettazione. Infatti, antisismica, voi state lavorando anche su queste ipotesi, la vero? La tecnica sì, va applicata sia nei paesi a elevata sismicità, strutture da adeguare, antiche da adeguare, ma anche a strutture relativamente recenti in aree non sismiche, che però diventano sismiche a seguito di attività antropiche, come appunto l'estrazione e lo stoccaggio di gas cui faceva riferimento lei. Sono situazioni tipiche del nord Europa. Senta, c'è qualche esempio concreto? Siete già riusciti ad applicare nella realtà questa tecnica? Io so che c'è quantomeno un brevetto internazionale. Sì, c'è un brevetto internazionale Enea Politecnico di Torino. Applicazioni concrete non ce ne sono ancora, anche se siamo teoricamente pronti per un'applicazione reale. È stato proposto questo sistema per l'adeguamento sismico di alcuni edifici all'Aquila e adesso stiamo mettendo su una proposta per un progetto europeo con una partnership europea molto forte, anche perché, come le dicevo, ci sono paesi europei, soprattutto nel nord Europa, interessati a questa tecnica. Senta, dal punto di vista tecnologico, questo tipo di operazioni, dove stanno gli aspetti più difficili, la procedura in sé, i materiali che magari bisogna mettere a punto? No, la difficoltà sta nella tecnica spingitubo essenzialmente, perché va adottata una tecnica specifica per ogni tipologia di sottosuolo e ovviamente i problemi possono derivare da vibrazioni indotte sulla sovrastruttura e cedimenti del terreno durante appunto l'inserimento dei tubi. Queste problematiche sono state però studiate e siamo in attesa di poter sperimentare e verificare quello che abbiamo valutato. Di averle studiate bene, insomma. Speriamo di averle studiate bene, sì. Va bene, grazie. Grazie Paolo Clemente. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento.